Capitolo 17. Il tram numero 11 taglia la piazza dell'Ottobre, anticipando d'un soffio il suo gemello, che reca in fronte la lettera B. 10 anni fa, là dove i binari si incrociano, la 7ª divisione d'artiglieria ucraina piazzò un mortaio puntato sul Cremlino. Bogdanov immagina la traiettoria del proiettile, oltre il campanile della chiesa della Madonna di Kazan. Posa gli occhi tra le sue cupole lascive e li fa volare, insieme a una cornacchia, alti sui tetti delle case, sopra le cime ingiallite degli alberi, fino a scorgere la punta dell'immensa torre radio che domina i sobborghi meridionali. Di fianco a lui, Danny osserva un manifesto a colori, affisso all'esterno di un chiosco di giornali, e si massaggia il naso, come farebbe col mento un intellettuale pensoso. Dopo 2 settimane, che non mette piede fuori dall'istituto, Bogdanov ha deciso di concederle una passeggiata, visto che i suoi strani micobatteri non sono contagiosi. «È la propaganda di una medicina?» domanda la ragazza. Bogdanov considera l'oggetto delle sue attenzioni. Una donna, con un cappello a campana, si spruzza compiaciuta il viso di profumo, davanti allo specchio della sua toilette, mentre fuori dalla finestra si staglia il profilo di Mosca. «È il profumo Notti Bianche», risponde, «della ditta Tege». Un camion dei pompieri, della vicina caserma, si apre la strada a colpi di tromba, tra carri e carriole ricolmi di assi, botti e ferraglia, tirati da uomini e quadrupedi. Danny continua a tormentarsi il naso, indifferente al traffico. «Anche su una CUN ci sono cartelloni simili, però raffigurano chi produce gli oggetti, non chi li usa». Bogdanov si aggiusta il cappello comprato ai magazzini statali GUM, dove i manifesti ritraggono operai e contadini che si stringono la mano. «Quindi un profumo come viene pubblicizzato?» domanda incuriosito. «Si vedono gli operai che lo imbottigliano o i contadini che coltivano le erbe essenziali?» Danny si adombra, come di fronte a una domanda offensiva. «Noi non produciamo profumi», dice. «Chi vuole se li fa in casa, così impara qualcosa di utile». Punta la boccetta di Notti Bianche con l'indice candido come zucchero. «Il lusso è incompatibile con il socialismo tanto quanto la povertà». «Comprate una sigaretta», gli esorta una voce. Appartiene a una donna dagli abiti logori, con i capelli sudici e le labbra screpolate, che tende verso di loro una mano smagrita. 3 rotoli di carta e tabacco ci oscillano sopra, ammaccati e sporchi quanto chi li offre. Difficile dire se la tempestività dell'apparizione sia dovuta a una pura coincidenza, al gran numero di mendicanti che si aggirano per Mosca o al fatto che Danny ha visto la donna avvicinarsi. «Rendere i poveri di oggi sani, eleganti e profumati come principi», commenta Bogdanov mentre l'ambulante riprende la sua strada. «Non sarebbe anche questa una vittoria del socialismo? La Tege è una ditta statale, vende cosmetici a prezzi popolari». «A me pare che venda un modello di bellezza», obietta Danny senza enfasi. «Quello dei parassiti del vecchio mondo». La risposta lascia Bogdanov senza parole. La frase di Danny sembra presa da uno dei suoi articoli sulla cultura proletaria. Avrebbe potuto dirla lui, e invece gli viene sbattuta in faccia da una ragazza psichicamente labile che è più Bogdanov di Bogdanov. «Vieni, dobbiamo rientrare», dice. Per scacciare quel pensiero e senza attendere la reazione di Danny, si incammina, ingobbito, verso l'istituto, che dista poche centinaia di passi. Arrivati alla porta, raccomanda alla ragazza di stendersi a letto e raggiunge il laboratorio di ematologia, dove il dottor Vlados lo attende da 10 minuti. Sul tavolo bianco, al centro della stanza, campeggia una teca di vetro. All'interno, sopra un tappeto di segatura, dorme un coniglio, anche lui bianco, con un sigillo rosso e un codice sull'orecchio destro. Il pelo del torace è rasato e sulla pelle rosa spiccano 4 granulomi arrossati come i vertici di un quadrato. Bogdanov indossa la mascherina che Vlados gli porge e si avvicina alla teca, nella luce pallida che piove dal soffitto. L'animale non dorme, è morto. «Questo è D16», dice Vlados, battendo un dito sul vetro. «Il primo coniglio al quale abbiamo inoculato i germi della nostra paziente. positivo al test della tubercolina, nessun sintomo della malattia, nessun micobatterio nell'espettorato, chiari indizi di reazione immunitaria nel sangue. Lascia che le quattro pennellate compongano un quadro nella testa del direttore e riprende la relazione. Ieri ho portato D16 all'istituto di patologia per iniettargli 2 microgrammi di micobatteri bovini vivi in emulsione salina fisiologica. Il risultato è quello che vedete. Ipersensibilità, sentenzia Bogdanov. L'altro non si prende nemmeno il disturbo di annuire, tanto appare evidente la conclusione. Ora prosegue, si tratta di capire le cause di una reazione così forte. Dobbiamo fare esperimenti su un campione più vasto, senza dover andare ogni volta all'istituto di patologia. Serve un finanziamento per acquistare almeno 60 bestie, con tutti gli strumenti adatti a trattarle e un permesso per conservare campioni di bacilli nel nostro laboratorio. Vlados si volta, raccoglie un foglio da una mensola affollata di faldoni e lo porge a Bogdanov. Ho preparato una lista di quel che occorre e una previsione di spesa. Che Romanov boccerà senza nemmeno considerarla, lo interrompe il direttore alla vista dell'elenco. Vlados si irrigidisce, come vergognandosi dell'entusiasmo che lo ha appena trascinato. Non mi pare che l'istituto sia corto di finanziamenti, dice a denti stretti. Non lo è, ammette Bogdanov. Ma il ministero ci chiede di produrre studi sulle trasfusioni e sulle malattie del sangue, meglio se legate al lavoro. Romanov direbbe che la tubercolosi non rientra nelle nostre competenze. Gli andrebbe fatto presente che è qui per tenere i conti e ottimizzare le spese, suggerisce Vlados. Non spetta a lui decidere di quali malattie ci dobbiamo occupare. Cosa gli stiamo chiedendo? Qualche provetta in più, qualche siringa e qualche decina di conigli. Batte il palmo sulla teca, dove riposa il cadavere di D16, come se volesse risvegliarlo, ma si apre invece la porta del laboratorio e prima che Bogdanov possa pensare a un sortilegio o a uno strano spostamento d'aria, nel buio, sotto l'architrave, compare la sagoma di Danny. La ragazza fa 2 passi verso la luce, mostrando un volto appena più roseo di poco prima, come se un'onda di calore fosse infine riuscita a pigmentarle le gote. Perché parlate di animali come se fossero oggetti? Credete che la loro vita sia di vostra proprietà? Li impagliate perfino per esporli come soprammobili. Ma di cosa sta parlando? Domanda Vlados, rivolto a Bogdanov. Avrebbe voluto sussurrare, ma la voce è uscita più alta del previsto e bene udibile fino in fondo alla stanza. Danny si avvicina alla teca e indica il cadavere del coniglio. Parlo di questo e degli altri che volete uccidere. In quel momento entra Natalia, scambia un cenno d'intesa con il marito, quindi raggiunge la ragazza. Anche Bogdanov le si avvicina, le sfiora i capelli del colore della luce, poi ritira la mano, colto dall'imbarazzo. Ascolta, noi medici, quando discutiamo delle malattie, usiamo numeri, dati, statistiche, ma non è cinismo, ci aiuta a lavorare con il giusto distacco. La stessa sensazione che ha provato davanti al manifesto del profumo Notti Bianche. Si sta giustificando con argomenti che lui stesso criticherebbe. Il linguaggio è un attrezzo tecnologico. Organizza le esperienze, fissa alcuni concetti offrendo sostegno alle conoscenze più vaghe. Consente il lavoro collettivo e lo plasma di conseguenza. Se l'unico utensile che hai per lavorare è un martello, molto a fatica potrai cesellare il ferro. Se parli sempre della vita come se fosse una cosa, molto a fatica potrai rispettarla. Poche decine di animali, riprende, potrebbero consentirci di salvare molte persone. Capisci, se la vedi da questa prospettiva il bilancio è positivo. La vita non ha che da guadagnarci. Danny si volge verso di lui, il volto rigato di lacrime. È quello che dicono su Nakun. Alcuni pensano che sarebbe più pratico sterminare voi terrestri con un veleno selettivo. Questo ci metterebbe a disposizione l'intero pianeta. La vita non avrebbe che da guadagnarci, perché la vostra scomparsa consentirebbe di preservare la nostra civiltà, che è più avanzata e più numerosa della vostra. Io sono venuta sulla Terra per evitarlo, ma estirpare questo modo di pensare è difficilissimo. Lo è per noi, dopo 200 anni di rivoluzione, tanto più per voi. Eppure ci speravo. È davvero delusa, affranta. Vieni in camera, cara, dice Natalia. La ragazza si lascia accompagnare fuori. Quando sono uscite, Vlados sbotta. Volete spiegarmi di cosa stava parlando? Cos'è Nakun? Chi vuole sterminarci? Tace davanti alle mani alzate di Bogdanov e alla sua espressione sconsolata. La ragazza soffre di una forma di pseudologia fantastica, spiega il direttore. Crede di provenire da un altro pianeta. Deve avere sviluppato la patologia come difesa da una vita molto dura, traumatica, fin dai primi anni. Vlados scuote il capo e passeggia nella stanza, come se cercasse qualcosa, che forse è solo il filo del discorso. Sentite, se vogliamo portare avanti lo studio ci servono le cavie. E se Romanov non è disposto a comprarle, perché questo esula dall'ambito stabilito dal Ministero, vi consiglierei di rivolgervi al Ministero stesso. Mi risulta che conosciate personalmente il commissario alla salute pubblica. Si ferma e attende la replica. Vlados è un uomo pragmatico, per questo lo ha scelto. Vede un problema e cerca una soluzione. Trova un ostacolo e pensa al modo di superarlo. Il direttore annuisce, senza aggiungere altro.